Ciao ragazzi, siete qui nel mio studio, voglio presentarvi il nuovo reality XXX Fuck e Thor, l'attore non sarei io, ma è Ready Baby? Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale. Diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Ed eccomi atterrato a bordo dell'astronave Enterprise. Siete tutti belli connessi qua con Star Trek. Questa sera è uno speciale molto molto particolare. Non mi sembra di aver visto in giro, meglio dire sentito, nelle radio italiane uno speciale del genere. Magari leggendo il titolo, Star Trek viaggio nel pianeta porno, o meglio, viaggio nel pianeta, mi piace di più, a luci rosse e erotico. Che uno appena lo sente così può dire, ma questi qua cosa che fanno? Praticamente chi c'è? C'è a bordo Rocco Siffredi stasera? Chi è che c'è? Ragazzi, no, te lo qua! No, non ho parole. Dimmi Rocco, sì. Sì. X. Ok. Fuck e sì. Thor, deve essere bello. Io. E chi è? E che l'attore che è? Se non sei te, che è? Non so, magari. Se non è lui, potrei essere io l'attore, lo so. Che dici, Rocco? Potrei essere io. Infatti. No, lasciamo perdere. No, a parte gli scherzi. Ah, anzitutto, benvenuto Rocco, Rocco Siffredi, benvenuto Rocco qua a bordo dell'astronave Enterprise. Stavo dicendo appunto una puntata particolare, scusate se mi scappa da ridere, però immagino l'ascoltatore, no, che si sintonizza e dice, ma cosa fanno sti qua, mandano non so magari in onda dei film a luci rossa. Siamo in collegamento diretto col Cinema Roma di Piacenza, insomma è l'uno degli ultimi cinema che programmano ancora dei film pornografici. Non fraintendete, anche se il titolo magari è facile subito fraintendere. Negli anni 70, io non sono un cultore del, insomma, non sono, devo essere sincero, un cultore del cinema porno. Vabbè, dai, iniziate a ridere, ragazzi, dai. Cioè, sembra che, cioè, 24 ore su 24 sono a casa. No, dai, non ave, no, dicevo, a parte gli scherzi, non sono appassionato, non conosco bene il genere porno, quindi non parleremo di attori. Però negli anni 70, soprattutto negli anni 70, questi film particolari erano accompagnati anche da colonne sonore molto belle, no? Insomma, quindi anche dei nomi famosi della musica, non so, magari da tema, non rifiutavano di, tranquillamente, di partecipare alla colonna sonora di un film a luci rosse. Però non parleremo solo di film porno, ma anche di film erotici. E citeremo ovviamente il film, e però soprattutto vi faremo ascoltare la colonna sonora proprio di quella pellicola. Intanto c'era Rocco che voleva intervenire. Dimmi Rocco, cos'è che volevi dirmi? Non ho mica capito, dimmi, cos'è che volevi dirmi? Scusa perché non ho capito, che c'è? Dimmi, cosa volevi dirmi? Non mica tanto capito. Ok. Siete qui nel mio studio, sì. Me l'ha girato prima. Sì. No, veramente, X, insomma, questo qua sta. No. E beh, immaginavo. E chi è allora? Sì, dimmi. Chi è l'attore? La ricordate? No, io no. Lì faceva parte di quella vostra, no, io non lo ricordo. X, non lo ricordo. Ma Non me la ricordo, Rocco. Cosa devo dire? Non me la ricordo. La nostra, cioè, cantante, nel senso, turista, aveva delle tette così. Non vabbè, dai, dai, dai, dai. Buono, buono, buono. Dai, dai, dai. Buono, no. Buono, buono, Rocco. Va bene. Non farti gli scherzi, dai. In apertura, visto che è salito a bordo dell'astronave Enterprise, appunto, l'attore hard Rocco Siffredi, lo citiamo un attimo. Facciamo una piccola cronistoria di questo grande attore. Poi ascolteremo la prima canzone. Rocco Siffredi. Nome d'arte Rocco Antonio Tano, nato a Ortona il 4 maggio del 1964, pensate, è un attore pornografico, regista, produttore cinematografico, personaggio televisivo, eccetera, eccetera, Wikipedia lo cita così. La sua carriera di attore porno inizia nel 1984 e sì, diciamo così, è sempre stata una carriera un po' particolare. Dopo una breve pausa di 2 anni in cui si dedica all'attività di modello, perché vabbè, a parte essere un bell'uomo è anche proprio magro, prosegue ininterrottamente fino ad oggi alla sua carriera di porno attore, benché abbia dichiarato più volte la conclusione della carriera. Però diciamo così, Rocco non sa smettere, e vabbè, come dagli torto, d'altra parte, insomma, è difficile, è un mondo dove è un po' difficile smettere. Molto al pubblico, soprattutto come attore, Siffredi, anche regista e produttore di film hard, ha creato una propria casa di produzione, la Rocco Siffredi Production. Il suo nome d'arte deriva da Rock Siffredi, protagonista di un film gangster di Borsalino, interpretato per l'appunto da Alain Delon. Ringraziamo Rocco Siffredi per essere salito a bordo dell'astronave Enterprise. Ultimamente è uscito anche un suo reality molto carino, diciamo così, sulla 5, dal titolo Casa Siffredi. Io ho cercato in giro se trovavo la colonna sonora di quel reality e me ne scuso, non l'ho trovata, perché come si suol dire, insomma, magari non so, non è ancora stata pubblicata sul web, non so, comunque non ho trovato quella colonna sonora, ho cercato, ho fatto il possibile per trovarla, ma nulla, nulla, niente da fare, non l'ho mica trovata. E allora sapete, ragazzi, cosa ho fatto? Bene, bene, quella colonna sonora lì che Siffredi utilizza proprio come tema iniziale di Casa Siffredi, questo reality, è in parte tratta da un telefilm americano anni 70 e era la colonna sonora proprio di questo telefilm. Ve lo faccio ascoltare. Intanto vi ricordo che siete a bordo di Star Trek Viaggio nella storia della musica in compagnia di Andrea. Potremmo definirlo un pochino Casa Andrea, no? Casa Siffredi. Questa invece è Casa Andrea, dai, non scherziamo. La colonna sonora che Rocco ha, diciamo così, un pochino strappolato per il suo reality è tratta da questa. Vediamo se la ricordate. Fino all'ultima nota, bellissima, questa colonna sonora di un glorioso telefilm americano, per l'appunto conosciuto in Italia col nome di California, e una serie televisiva statunitense nata per l'appunto dalla costola di Dallas. E il buon vecchio Rocco Siffredi l'ha utilizzata come sigla iniziale del suo reality Casa Siffredi. Pensate un po' che questo telefilm americano è andato in onda negli Stati Uniti il 27 dicembre 1979 sino al 13 maggio 1993. Contrariamente a quello che si può pensare, in Italia purtroppo non ha avuto un grande successo per quanto concerne invece i network, ma ha avuto, diciamo così, un mercato per network a livello locale, quindi piccole televisioni. Però negli Stati Uniti mi pare sia ancora più famoso di Dallas. Siamo lì, comunque, se non fosse più amato anche di Dallas. Ed era per l'appunto questo, la colonna sonora di questo telefilm che ho voluto riascoltare, appunto riagganciandomi al discorso di Rocco Siffredi, anche se questa base non c'entra proprio niente con il cinema porno. Ora ascoltiamo una canzone e poi parleremo invece di un documentario uscito negli anni 70 invece, che ci racconta per l'appunto le notti sexy del mondo. Insomma, è un documentario molto bello di Gio D'Amato, e questa invece è la colonna sonora per l'appunto del documentario. Siete sempre all'ascolto di Star Trek Viaggio nella storia della musica. Questa è la colonna sonora, bellissima. Gianni Marchetti, bellissima veramente questa canzone, colonna sonora anche mi sembra del deodorante Bach negli anni 80, era la colonna sonora di un documentario dal titolo Notti porno nel mondo. È un documentario del 1977, per l'appunto diretto da Jimmy Matthews e da Gio D'Amato. Il film si ispira al Mondo Movie. Le parti di finto repertorio erotico furono girate da Bruno Mattei, mentre tutto quello che appunto concerne il film proprio per sé è stato girato da Gio D'Amato. Il film viene ampiamente tagliato dalla censura, non avevamo dubbi, e viene rinominato dal solo appunto Gio D'Amato col titolo Le notti porno nel mondo numero 2. La trama è la seguente: l'attrice Laura Gemser entra in scena dicendo «Sono Laura Gemser, la tua Emanuelle nera», che genera di spettacolo, cerca in ottamboli dell'era della crisi economica e presenta una serie di spettacoli erotici che dovrebbero essere ambientati in varie parti del mondo, ma in realtà, pensate un po', il film è stato interamente girato negli stabilimenti di Roma, presumo di Cinecittà. Siete sempre all'ascolto di Star Trek Viaggio nella storia della musica. Tra le altre cose, apriamo una parentesi su Gio D'Amato, che negli anni 70 ha girato veramente tante pellicole. Se non erro, ha girato più di 200 film, pensate un po', che spaziavano da ogni genere, dal porno all'erotico, all'horror, al thriller, persino allo spaghetti western. Magari dovrebbe essere un pochino rivalutato come come diciamo così regista italiano. Ora entriamo veramente nel mondo del cinema a luci rosse, passatemi questo termine molto retro che tra l'altro mi piace molto. Ascoltiamo la colonna sonora di uno dei film, direi, simbolo di questo genere, appunto, di pellicole. Sto parlando della colonna sonora di... Bisogna usare questa impostazione di voce. Sto parlando, per l'appunto, della colonna sonora di Gola Profonda. E questa invece è la colonna sonora del film, per l'appunto, Gola Profonda, film pornografico. Ciao, eccolo, vedi, cioè, non ho parole, ragazzi. Oh, appena metti su, sì, grazie Rocco, sì, grazie. E chi è allora, lettore? Ready, baby? Dicevo, appena metti su una pellicola un po' particolare, compare lui come per magia, va bene, ringraziamo Rocco. Comunque, era con una sonora di Gola Profonda, un film distribuito per l'appunto nelle sale cinematografiche, in primis americane, poi diciamo così, approdato anche in Italia. È stato girato nel 1972, interpretato da Linda Lovelace e diretto da Gerard Damiano. Si tratta uno dei primi film porno ad avere una trama vera e propria, personaggi abbastanza delineati e standard. All'uscita nei cinema, Gola Profonda diventò un successo clamoroso, pensate un po', e ricevette l'attenzione anche del pubblico, diciamo così, un po' più normale, non il solito pubblico di nicchia che solitamente sono dediti ad andare a visionare questo genere di pellicole, magari al cinema Roma di Piacenza, diciamo così, dai ragazzi, non scherziamo. Diventò, pensate un pochino, un caso nazionale proprio negli Stati Uniti, dove è uscito e ha fatto un grande successo. Tra l'altro è un film molto particolare, la trama non l'ho mai visto, preciso, non l'ho mai visto, non ho mai avuto occasione di visionare questo film. vabbè, non si può continuare a ridere così, giuro non l'ho mai visto. Oh, se vi dico che non l'ho mai visto, non l'ho mai visto, non posso fare, non l'ho mai visto, vabbè. Comunque, leggevo la trama, è interessante, la storia narra dell'insoddisfazione sessuale di Linda, una prostituta. La giovane decide di parlare con la collega Jenny. Jenny cerca di aiutare la sua amica organizzando, pensate, incontri a sfondo sessuale con delle persone super dotate, diciamo. Ciao, così. Ragazzi. Va bene, dai, ragazzi. Va bene, scusate, ma vabbè, parli così, no? E spunta Rocco, va bene, ovviamente, non dicevo, interessante. Jenny, appunto, questa amica organizza incontri per la sua amica, per l'appunto Linda, con degli uomini superdotati, pensando che il problema sia legato alle dimensioni del, appunto, del pene. Anche in questo caso Linda non viene soddisfatta e rivolgendosi ad un medico scopre di avere la clitoride in gola. la ragazza inizierà a lavorare come infermiera, fornendo prestazioni particolari ai pazienti usando la tecnica della gola profonda. Vabbè, un pochino mi veniva da ridere, però è abbastanza inusuale la trama di questo film, particolare. Non dico che lo visionerò, magari chi lo sa. Non sono un amante di questo genere, però boh, se lo trovo in giro magari lo vedo. No, giusto per capire, per vedere, perché è giusto, insomma, prima di giudicare, come si suol dire, è sempre meglio visionare. Ora abbiamo invece una canzone meravigliosa, colonna sonora di un altro film, ne sono usciti tanti, questa volta del genere erotico, colonna sonora di Emanuele. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque une enfant, tu n'as connu seul amant. Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. L'amour à cœur, tu l'as rêvé. L'amour à corps, tu l'as trouvé. Tu es en somme devant les hommes, comme un soupir sur leur désir. Star Trek, viaggio nella storia della musica in compagnia di Andrea. Resteremo insieme ancora pochi minuti, mi dispiace. Questa sera stiamo facendo un bellissimo speciale, non vi ho ancora dato le coordinate, vabbè dai, ve le do ora, tanto ormai le sapete: www.startrekonline.org, se volete visitare il mio sito, il mio blog. Questa invece era Emanuele, una canzone molto bella. Ora parliamo dell'ultimo film, appunto, che affrontiamo questa sera. Parliamo di un film erotico, Histoire d'eau. È un film erotico del 75, diretto da Just Jackin e tratto dal romanzo omonimo di Pauline Réger. La trama è la seguente: una giovane fotografa, conosciuta sempre e solo con il nome di O, lo pseudonimo di O, viene condotta dal suo amante René in un castello situato a Rosy, dovrebbe essere in Francia, se non so bene se è giusta la pronuncia, dove assaggia a rituali sadomasochistici quali la flagellazione ripetuta fino a essere trasformata in un puro e semplice oggetto sessuale. Questo è un film erotico, non porno. Qui apprende tutti i segreti dell'arte dell'amore e della sottomissione volontaria. Al termine del suo soggiorno iniziatico, prima di ripartire, le viene consegnato un anello di ferro che dovrà indossare sempre e che la identificherà come schiava. Poco dopo incontra una modella di nome Jacqueline che dimostra presto di provare un forte interesse per l'avventura vissuta da O. Letteralmente sedotta da ciò che le racconta l'amica, contemporaneamente René presenta Sir Stefan come fratello maggiore della sua giovane e bella fidanzata. o viene quindi invasa da Sir Stefan nella sua casa di campagna, dove si trova per l'appunto anche Anne-Marie e altre giovani donne, tutte in attesa di essere marchiate col fuoco. La visita di O si conclude con l'inserimento di una serie di piercing, pensando un po' a forma di anello, nelle sue grandi labbra, e subito dopo con la marchiatura delle natiche con le iniziali del nome dell'uomo. Questo, come vedete, insomma, invece è un film abbastanza sadomasochistico. Non ho mai visto neanche questo, perché, come vi ho detto, non è il mio genere, però magari questo mi piacerebbe visionarlo. Il film uscì nel cinema francese il 28 agosto del 1975, distribuito in Italia dalla Filmarte Distribuzione, a fine giugno del 76, con doppiaggio affidato alla CIDI, che era una società per l'appunto di doppiaggio. Ovviamente, come facile immaginare, numerosi furono in Italia a cui fu sottoposto il film. L'edizione originale francese uscì nel cinema nell'agosto del 75, durava 105 minuti. In occasione della sua prima distribuzione italiana nel cinema fu accorciato di ben 12 minuti, il che corrisponde a 93-94 minuti, ma le vecchie fonti italiane danno l'edizione nostrana come di ben 102 minuti. Vabbè, ai tempi appunto i tagli nelle pellicole, direi, soprattutto in Italia, era una cosa all'ordine del giorno. Purtroppo siamo arrivati in fondo anche per quanto concerne questa bellissima puntata di Star Trek. Abbiamo un pochino scherzato questa sera, però abbiamo ascoltato delle canzoni interessanti, molto belle, a me sono piaciute molto, spero vi siano piaciute anche a voi. Se avete gradito la trasmissione, così, no, molto scherzosa, bonaria, abbiamo trattato appunto di sesso, di erotismo in modo molto simpatico, potete lasciare un commento, potete anche scriverci, oppure semplicemente, se siete timidi, potete visitare il mio sito www.startrekonline.org, c'è un link dedicato per lasciare i messaggi, dove potete lasciarli anche in anonimato, quindi nessuno vi controllerà e nessuno vi dirà nulla. Ringraziamo tutti gli amici intervenuti, in particolare a Rocco Siffredi, grazie Rocco. Ciao ragazzi. Ciao Rocco, grazie. Studio, sì, grazie per essere intervenuto anche te. Ascoltiamo proprio la colonna sonora di questo film. Non ho scelto, devo essere sincero, la colonna sonora originale, perché ho trovato una versione del maestro Fausto Papetti stupenda, il suo sax veramente ci dà delle grandi emozioni. Questa è la colonna sonora per l'appunto di Histoire d'eau, interpretata magistralmente dal maestro Fausto Papetti. Io ringrazio ancora tutti per avermi ascoltato, ci risentiamo come sempre, addio piacendo, nelle nostre prossime puntate di Star Trek Viaggio nella storia della musica. Grazie ancora, un abbraccio da parte di Andrea. Grazie.